Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti, benvenuti a Salva Danaio. L'obiettivo è il risparmio della pubblica amministrazione, ma occorrerà fare molta attenzione alle esigenze delle persone anziane, meno pratiche e sicuramente meno tecnologiche. Oggi a Salva Danaio parliamo del CUD 2013, che come molti di voi sapranno, ci sono arrivate anche diverse segnalazioni, è diventato ufficialmente telematico. Intanto cos'è il CUD? È la certificazione che se uno è un lavoratore dipendente gli rilascia l'azienda, se invece uno è un pensionato e gli rilascia l'ente previdenziale, appunto, è quella certificazione, quel modello che ci dà contezza di quanti soldi abbiamo guadagnato, in questo caso lo scorso anno, se parliamo del CUD 2013, e quindi è il modello base di partenza per la nostra dichiarazione dei redditi annuale. Entriamo con questa novità nella stagione della dichiarazione dei redditi, per l'appunto. L'invio tramite email o inserendo il proprio PIN sul sito dell'INPS è previsto anche per i pensionati che nel nostro paese, lo sappiamo, spesso non possiedono un computer o non si trovano a proprio agio ad usarlo. In molti casi non possono neanche contare sull'aiuto di un familiare. Per questo è importante fare il punto su tutte le modalità alternative che permettono di ricevere il documento in forma cartacea. L'INPS, va detto, ne ha predisposte parecchie e bisogna ricordare a tutti di fare la massima attenzione, diffidando anche di chi potrebbe approfittare di questa novità, in primis sedicenti consulenti non proprio ben intenzionati, perché appunto capita anche questo. Allora, di tutte queste novità che hanno creato un po' di disappunto tra la platea dei contribuenti anziani, cercheremo di fare chiarezza questa mattina e anche di raccogliere, se vorrete, le vostre segnalazioni all'800 24 00 24 oppure scriveteci al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. se con la pensione di febbraio il CUD non vi è stato consegnato, sapete che lo potete prelevare e ritirare solamente attraverso la modalità online. Ci siete riusciti? Non ci siete riusciti? È una novità che vi ha messo in difficoltà? Stamattina ne parliamo con Mauro Nori, direttore generale dell'INPS, che saluto. Dottor Nori, buongiorno e grazie per la sua disponibilità. Matteo Prioschi del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a tutti. E Valeriano Canepari, presidente nazionale dei CAF CISL e della Consulta Nazionale dei CAF, i centri di assistenza fiscale. Presidente, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Vi ho ricordato tutte le modalità per intervenire, naturalmente che sono sempre le stesse. Adesso rapidamente la borsa. Torna a prevalere il rosso in Europa, listini tutti in calo ed è un calo particolarmente forte adesso per Milano, che perde l'1,63%. È andata bene anche l'asta questa mattina dei titoli di Stato che dovevano essere collocati dal Tesoro italiano, BTP a 3 a 15 anni, però come era nelle attese, dopo il declassamento di Fitch, anche per questi titoli, come è successo ieri per i bot annuali, rendimenti in salita. Per il BTP che scade nel 2028, il rendimento chiesto dal mercato è stato del 4,90%, dal 4,80 di febbraio. Per il BTP con scadenza 2015 il rendimento è salito al 2,48% dal 2,30 di un mese fa. Lo spread è salito 322 punti base, torna a pesare l'incertezza politica. Naturalmente i migliori titoli di Milano rapidamente: Saipem più 1,72, Luxottica più 1,15, Mediobanca più 0,97%, mentre i conti di Enel fanno sprofondare proprio il titolo in questo momento, meno 6% per il gruppo. UbiBanca pure dopo i conti meno 4%, e con cali di 4 punti troviamo il Banco Popolare meno 3,5 punti per Mediaset, meno 2,7 per Fiat Industrial e per la Popolare dell'Emilia Romagna. Lasciamola subito la borsa, andiamo al tema di oggi, parliamo del CUD 2013, da quest'anno in versione per tutti telematica. Da pochi giorni siamo entrati nella stagione della dichiarazione dei redditi e, come sempre, ad avviare il meccanismo della macchina fiscale è la consegna della certificazione unica da parte dei sostituti d'imposta o degli enti pensionistici. Meglio conosciuto come CUD, il documento attesta l'ammontare dei redditi erogati nel corso del 2012 ai dipendenti o ai pensionati, delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali. Quest'anno però l'appuntamento riserva una novità sostanziale, La recente legge di stabilità ha infatti previsto per le pubbliche amministrazioni l'utilizzo del canale telematico per l'invio di comunicazioni e certificazioni al cittadino, allo scopo di abbattere tempi e costi di consegna. La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati verrà quindi distribuita tramite internet e anche il pensionato dovrà collegarsi con il suo PIN nella sezione Servizi al cittadino del sito istituzionale www.inps.it o in alternativa potrà riceverlo nella sua casella di posta certificata, nel caso ne disponga e ne abbia già comunicati gli estremi. Una procedura che potrà non risultare semplicissima per chi non possiede un computer, non è abituato ad usarlo o non si trova nella situazione di poter chiedere aiuto a un familiare. Secondo i dati Istat relativi al 2012, solo il 30,9% degli italiani tra i 60 e i 64 anni fa uso di internet, percentuale che scende al 16,3% nella fascia tra i 65 e i 74. Se si superano i 75 anni, si precipita al 3,3%. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande sul tema di questa mattina, 349 238 6666, numero per i vostri messaggi. Già un ascoltatore ci scrive sul sito INPS, mi potete dire dove si trova il CUD da ritirare, da scaricare? Dottor Nori, segno che non è proprio neanche tanto automatico, anche se uno fosse preparatissimo, dotato di PIN, assolutamente tecnologico e telematico, non è immediata il ritrovamento appunto della sezione dove poter scaricare la propria certificazione. Sì, per questo abbiamo anche un motore di ricerca, abbiamo inserito anche un banner da questo punto di vista in questa operazione. D'altronde posso dire, da dati che sono pervenuti anche questa mattina, sono già 2.100.000 i CUD prelevati tramite web. Su una platea potenziale di quanti? La platea potenziale dei soggetti che fanno che hanno bisogno di CUD sono 18 milioni. I CUD già trasmessi sono poco meno di 10 milioni. Mm. Allora, senta, dottor Nori, è chiaro che l'INPS non poteva dire ci opponiamo alla modalità indicata dalla legge di stabilità, no? Però comunque è stata approvata qualche mese fa. Era preventivabile tutta la mole di difficoltà in cui molti contribuenti si sono trovati in questi giorni? Le abbiamo un po' sottovalutate in casa INPS? Assolutamente no. Noi abbiamo esperienza di queste operazioni di massa, non a caso noi ogni mese abbiamo rapporti con oltre 40 milioni di cittadini italiani, pensionati e assicurati. Noi stiamo lavorando da novembre a questa operazione che, come lei giustamente ricordava prima, è stata disposta tramite una legge e che, ricordo, il prossimo anno sarà obbligatoria la trasmissione telematica di tutte le certificazioni. Noi per questo stiamo lavorando attraverso la collaborazione con gli intermediari fiscali, i CAF, i soggetti abilitati, i patronati, via web, attraverso le nostre 400 sedi sul territorio, attraverso un sistema semplificato chiamando il call center dell'INPS, attraverso una semplificazione ulteriori che stiamo introducendo utilizzando anche la posta elettronica ordinaria del cittadino che si identifica attraverso la scannerizzazione del proprio documento, e stiamo valutando anche l'apertura ai soggetti consulenti del lavoro, ai professionisti, ai commercialisti, verificando ovviamente le modalità di sicurezza. Mi risulta, dottor Nori, mi scusi se la interrompo, che c'è già una circolare dell'INPS in diffusione appunto che individua già i professionisti abilitati all'assistenza fiscale, diciamo nuovi in aggiunta rispetto a quelli già pre-individuati appunto e che avete pensato di aggiungere. La sua informazione è corretta. Come ripeto, noi abbiamo chiarezza, esperienza di queste operazioni, ci stiamo lavorando da 2 mesi. Sappiamo benissimo che quando un'operazione riguarda oltre 18 milioni di cittadini, provi lei a contare fino a 18 milioni e rendersi conto che dietro ogni numero c'è una persona. No. Quindi assolutamente questa è stata la nostra prima priorità, quella di risolvere i disagi. Ovviamente su operazioni di questa mole abbiamo la contezza che dobbiamo essere immediatamente reattivi rispetto alle richieste. Non a caso stiamo sviluppando le collaborazioni con gli intermediari, con i CAF, sulle nostre sedi, e stiamo migliorando il livello nella garanzia della sicurezza della trasmissione e l'accessibilità ai nostri servizi. Certo. Comunque voglio dare anche un messaggio di tranquillità. Risulta che le persone che hanno concreto bisogno del CUD sono quelle che fanno la dichiarazione dei redditi. Infatti c'è sempre questo equivoco, perché già stamattina in molti ci stanno chiedendo: ma allora se io non lo ricevo che cosa succede? Intanto bisogna verificare se effettivamente il CUD è necessario averlo per fare la dichiarazione dei redditi, perché poi magari lo si può anche andare a ritirare in un momento successivo. La dichiarazione successivo. Dei redditi, il CUD è un documento obbligatorio, ma che non ha alcun rilievo pratico per il soggetto. Ecco, io il messaggio di tranquillità che voglio dare da questo punto di vista è che circa 10 milioni di soggetti che fanno la dichiarazione, noi ne abbiamo già consegnati praticamente lo stesso numero. E proseguiamo giorno per giorno con i servizi e la multicanalità, ovvero tutti quei canali di accesso che ho descritto. Che adesso prima andremo tra l'altro a ribadire. Vorrei allora capire, con l'aiuto magari di Matteo Prioschi, le motivazioni per cui su molti giornali ho letto tanto allarme nelle ultime settimane. Qual è la radicale intanto differenza con lo scorso anno? Il tema è stato che molti pensionati che si aspettavano di ricevere il CUD con la dichiarazione dei redditi di febbraio non hanno trovato questo documento allegato e quindi si sono spaventati. Qual è stato il punto? Oppure perché molti consulenti sono rimasti fuori dalla rosa dei professionisti che erano generalmente appunto chiamati a dare consulenza ai pensionati in questi casi? Ma più che altro il punto, diciamo che c'è stata una mancanza forse di comunicazione adeguata nei confronti dei pensionati, perché diciamo che era così consuetudine che purtroppo entro la fine di febbraio comunque il CUD molto spesso non era reso disponibile. Comunque l'abitudine era che il pensionato se lo vedeva recapitare a casa. Questa è la grande differenza rispetto al passato. Quale conseguenza della legge di stabilità? Quest'anno non c'è più questa opzione, cioè almeno questa è solo una delle tante opzioni, tendenzialmente l'ultima a cui si dovrebbe fare ricorso nell'intenzione del legislatore per ridurre i costi. Quindi la grande differenza è che il canale principale è diventato internet, o il sito, la mail o il sito internet, ma non c'è stata adeguata informazione. Certo. Quindi con l'avvicinarsi della scadenza teorica, diciamo, cioè il 28 febbraio, è iniziato un tantam tra operatori del settore, e ripreso poi dalla stampa amplificato, su diciamo la novità che in effetti si conosceva da 2 mesi, ma alla quale non era stata data probabilmente adeguata rilevanza. Esatto, lì qual era, come dire, l'operazione da fare? Non lo so, dottor Nori, raggiungere tutti i pensionati interessati con una comunicazione preventiva che dicesse: guarda che da quest'anno il CUD lo puoi scaricare solamente online, lo puoi ricevere solo secondo questa modalità, e magari lì si andava a verificare tutto il risparmio della pubblica amministrazione. Posso però da questo punto di vista dare anche una lettura differente? Sì. Nel senso, noi... Allora, la comunicazione, come si raggiungono masse di milioni, decine di milioni di soggetti? O li si raggiunge con una informazione puntuale, quindi con una comunicazione a casa, che era l'operazione fatta fino allo scorso anno, un'operazione che ci costava oltre 40 milioni di euro, per dare anche un punto di riferimento, o altrimenti li si raggiunge attraverso dei comunicati stampa, che comunque noi abbiamo fatto. Io però vorrei dare anche una lettura differente rispetto agli slogan, che sono molto semplici e sono molto accattivanti, ma che non rispecchiano la realtà. Non ne stiamo dando, dire spero che ce lo riconosca, dottor Nori, voglio solo conoscere qual è la reale natura del problema. Ecco. Voi siete notoriamente... Non cercavo complimenti, era solo per dire. Andiamo alla ciccia della questione. Non mi riferisco assolutamente, la mia non è una critica all'informazione dei media, me ne guarderei bene. Voglio semplicemente dire che lo slogan di dire l'anno scorso l'abbiamo ricevuto per posta, quest'anno c'è solo il web, è una informazione parziale. Sì, certo, perché è ovvio, è estrema. Non c'è solo il web, c'è il telefono. Oggi lo strumento di comunicazione più semplice è il telefono. Ecco, tramite il telefono, attraverso il nostro numero verde, si può ottenere il CUD. Ci sono anche tutte le altre modalità. Volevo chiederle un'altra cosa però, dottor Nori, mi scusi se la interrompo, ma perché sto cercando, visto che lei può rimanere con noi ancora poco, di cogliere subito le perplessità, le questioni che ci pongono gli ascoltatori. Riguarda solamente i pensionati? L'invio perché io per esempio lavoro in un'azienda e il mio sostituto d'imposta, la mia azienda me lo consegnerà. Non l'ho ancora fatto quest'anno, Matteo. Anche noi ancora non l'abbiamo ricevuto. Guardi, chi altro lo deve reperire in via esclusiva online? Guarda, lei ha toccato un argomento molto... che a me sta particolarmente a cuore. Noi siamo sostituto d'imposta per oltre 16 milioni di soggetti, ci sono 14 milioni di pensionati, ma ci sono anche 3 milioni di soggetti che hanno prestazioni di sostegno al reddito, quindi cassa integrazione e gli altri interventi di sostegno, e poi abbiamo per la prima volta quest'anno, frutto anche dell'integrazione e l'unificazione in un unico ente previdenziale di INPDAP ed EMPALS, cioè i due enti previdenziali che gestivano le pensioni pubbliche e le pensioni dei lavoratori dello spettacolo, anche 1 milione di soggetti che hanno il CUD unificato, cioè l'unificazione di più prestazioni magari beneficiate in più enti. Quindi ci sono, fuori dal numero che abbiamo descritto, 4 milioni di soggetti che non sono pensionati, che ricevono dall'istituto il CUD. E quindi, no, mi scusi che ho spento oltre il microfono. Ovviamente ai nostri 30.000 lavoratori, ma in questo caso siamo noi datori di lavoro, e quindi quindi anche queste persone devono stare attente, perché se sono in cassa integrazione per esempio dalla propria azienda, in questo caso non è quest'anno l'azienda che fa da sostituto d'imposta e che invia il CUD, lo invia l'INPS? Lo invia l'INPS per quanto riguarda le prestazioni. Le prestazioni di propria competenza, ovviamente, per la parte di reddito regolarmente erogato. Per l'ultimo minuto di cui Nori ci dà la sua disponibilità, Matteo, tu avevi qualche domanda per il funzionario dell'INPS? No, volevo solo chiedere una precisazione sui numeri che prima ci ha fornito. Mm-hmm. Mi è sembrato di capire, voi avete appunto un bacino di riferimento di 18 milioni di persone. E non ho capito bene la differenza tra 2 milioni e 100 e 10 milioni a cui prima ha fatto riferimento. Allora, i 2 milioni e 100 sono stati prelevati dal web, direttamente dai cittadini, direttamente da singoli professionisti abilitati e anche una quota di patronati. 7 milioni e 600 mila sono stati trasmessi al sistema dei CAF, quindi i CAF soggetti abilitati, CAF e quant'altro, perché erano i soggetti che avevano in carico le dichiarazioni dei redditi dei nostri pensionati o soggetti che percepivano prestazioni a sostegno del reddito. Mm. Dottor Nori, io, se lei non ha altre comunicazioni da fare ai nostri ascoltatori, la saluto perché il tempo è terminato. Io l'unica comunicazione è che noi stiamo lavorando giorno per giorno per semplificare sempre più il nostro servizio, anche per presentarci all'operazione del prossimo anno, avendo già una scorta di esperienza notevole, insomma, per correggere anche laddove ci siano state delle difficoltà. Grazie molto, Mauro Nori, direttore generale dell'INPS. Eccoci ritrovati in diretta, ancora buongiorno da Deborah Rosciani. Oggi parliamo del CUD, la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente. Siamo quindi già entrati nella stagione, molto felicemente, della dichiarazione dei redditi. Il tema di quest'anno è che molti contribuenti il CUD quest'anno possono ritirarlo in via esclusivamente online, per chi è capace naturalmente di utilizzare serenamente internet. Però ci sono tante altre modalità, le abbiamo spiegate prima, ma adesso ci ritorneremo con un ABC molto chiaro. Abbiamo spiegate prima con Mauro Nori, direttore generale dell'INPS. Adesso sono rimasti con noi Matteo Prioschi del Sole 24 Ore e Valeriano Canepari, presidente nazionale dei CAF CISL e della Consulta nazionale dei CAF, i centri di assistenza fiscale. Dottor Canepari, le dico subito che molti ascoltatori stanno dicendo: e vabbè, qua abbiamo fatto un altro regalo ai CAF, quindi molti pensionati che si dovranno rivolgere ai centri di assistenza fiscale per farsi fare questo semplice scarico del documento dal sito INPS, e vabbè, almeno c'è qualcuno che li assiste, anche se chiaramente dovrà essere pagato questo servizio, giustamente. Canepari. Mi permetto di... dissentire? No, di modificare quanto... Il punto di vista. Sì. Intanto, è chiaro che questa decisione comporta dei disagi, soprattutto nella prima applicazione, perché non c'è stato il tempo di dare la doverosa e corretta informazione a tutte le persone coinvolte. Nel Vabbè, senso un, che lo un po' di tempo c'era. Sa che cosa mi ha detto un'ascoltatrice, un ascoltatore, Canepari? Bastava fare uno spot pubblicitario durante il Festival di Sanremo, con tutti i milioni di ascoltatori che quella trasmissione prende. Magari poteva anche essere... Ma non è colpa sua, è un ragionamento così un po' folcloristico. Adesso ci arriviamo per mettere in fila. Allora, disagi, qualche difficoltà, qualche disagio, qualche disservizio, è bene che venga messo nel conto, perché soprattutto la gente lo scoprirà cammin facendo, perché è abituata a ricevere la busta, non la riceverà, e quindi questo è e sarà il problema più importante. I CAF sicuramente nelle prossime settimane, perché normalmente i CUD arrivavano attorno al 20 di marzo, non prima, e quindi è inutile anticipare. Noi nelle ultime settimane di marzo, nella prima settimana di aprile, i CAF faranno una campagna pubblicitaria per evidenziare questo, quindi si assumono dei costi per fare una campagna di informazione, modificando la loro campagna pubblicitaria normale, anticipandola proprio per dare questa informazione ai pensionati. Questa è la prima cosa che noi faremo, non ci tocca, ma noi non siamo solo aziende che fanno questo servizio, abbiamo anche un'attenzione sociale alle persone che assistiamo. Assolutamente, quindi, altrimenti non la disturberei per tantissime puntate, Canepari. No, e quindi questa è la prima cosa, noi faremo una campagna di promozione, di pubblicità. Seconda cosa, noi abbiamo lavorato, lo diceva il dottor Nori, sono dalla fine dell'anno che lavoriamo con l'INPS perché sia noi che loro siano pronti e tutto funzioni. Noi abbiamo chiesto all'INPS di garantire la funzionalità del sistema, perché ci saranno milioni di accessi contemporanei, certo, e quindi abbiamo chiesto che fanno saltare che il server regga. Tipicamente, esatto. E da tempo l'abbiamo chiesto. Abbiamo chiesto di avere per tempo i dati del CUD in formato elettronico, ma anche in formato PDF, e devo dire che da questo punto di vista il lavoro che abbiamo fatto ha dato risultati, perché ad oggi il sistema dei CAF ha acquisito e sta acquisendo i CUD, sia da immettere nelle procedure fiscali sia da stampare e dare ai pensionati. Proprio stamattina c'era l'ultima riunione in sede INPS per mettere a punto gli ultimi dettagli. Il fatto che noi abbiamo i CUD è una cosa che succede da diversi anni. Da diversi anni alcune aziende pubbliche e private, dietro richiesta che noi ci facciamo dare dal contribuente, ci consegnano i CUD. Quindi è una prassi abituale, e quindi questo servizio noi siamo in grado di farlo senza nessun onere, nessun costo del pensionato. Il pensionato che è venuto a un qualunque CAF, e parliamo di circa 8 milioni di contribuenti, perché chi fa la dichiarazione dei redditi, se non è 730, è unico. Chi fa il 730 va a un CAF, ad uno piuttosto che ad un altro. Quindi questo CAF avrà a disposizione il CUD e lo potrà stampare senza chiedere un contributo di... E poi comunque ricordo che ci sono anche tutte le altre modalità, ci sono gli uffici postali, c'è anche la posta certificata, esatto, c'è, per esempio ci scrive Claudio, io ho usufruito di sostegno al reddito nel 2012 e ricevuto dall'INPS il CUD nella casella di posta elettronica certificata, ma Matteo Prioschi, anche attraverso la posta ordinaria si può ricevere, anche questa è una novità di stamattina che non abbiamo fatto in tempo ad approfondire con Nori. È la novità di oggi, che appunto l'INPS ha comunicato che si può utilizzare anche una casella di posta elettronica non certificata, quindi, quindi diciamo che ormai il panorama degli strumenti è a 360 gradi, difficile che non si possa ricevere, allora, quindi ecco, tanto per smorzare anche un po' il timore di molti che ci stanno sentendo. Canepari, i contribuenti che devono fare la dichiarazione dei redditi già dai prossimi giorni possono venire, andare a qualunque CAF, e il CAF è in grado di metterli a disposizione sia per la dichiarazione sia per stampare e consegnarglielo il proprio il proprio CUD. Da questo punto di vista noi non abbiamo particolari difficoltà e particolari problemi, perché ci vogliamo mettere in quest'ottica di servizio. Allora, intanto le faccio sentire un paio di domande di un paio di ascoltatori, Canepari, così facciamo anche consulenza attiva questa mattina. Giorgio da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo fare una domanda e una considerazione. La domanda è questa: nel caso la persona sia deceduta quest'anno, chi e come si deve fare per avere il CUD E se la persona aveva due pensioni, la propria e quella di reversibilità, bisogna fare due procedure diverse? Allora, sì. Primo, la considerazione qual è? Farò considerazione rispetto agli interventi che ho sentito stamattina, perché mi sembra che non ci si renda molto conto del mondo reale dei pensionati, perché non è solo un problema che solo una minoranza hanno il computer, perché anche chi ha il computer ha comunque una procedura complicata. Sì, ma non è senz'altro. Ci sono i centri di assistenza, ma bisogna comunque allora muoversi, andare in giro, fare le code, eccetera. Non è una cosa indifferente per i pensionati. Era sicuramente più semplice. No, però adesso non è neanche vero, senz'altro, Torino, però sono anche... Credo che non si capisca questa cosa. Giorgio, grazie. Io condivido la sua presa di posizione, però non dipingiamo neanche un mondo di pensionati che non riescano a muoversi da casa, perché per tante cose vanno agli uffici INPS, vanno alla posta, vanno ai centri di assistenza fiscale per chiedere tante informazioni. Quest'anno c'è da essere un po' più solerti, chiedere un'informazione in più, e poi chiaramente, come giustamente ci dicevano anche prima, qualora tu noti che ti arriva la pensione e il CUD non è inserita dentro, è chiaro che a un certo punto ti attivi. Per poi i pensionati ultra 85 anni che sono in difficoltà c'è anche un servizio, credo, di specifico, vero Matteo? Sì, Prioschi, sì, sì. Ecco, esatto, per cui per tutte le persone in difficoltà. Canepari, detto questo, se vuole commentare la riflessione di Giorgio, volentieri. Per i deceduti come funziona? Sì, no, anche per il deceduto è la persona lo sostituisce per fare la dichiarazione, quindi questo si reca al CAF o dal commercialista, e questo può scaricare il CUD e fare tranquillamente la dichiarazione. Da questo punto di vista non ci sono problemi, così come per la pensione di reversibilità. Diceva il dottor Nori che quest'anno il CUD ha una caratteristica diversa, perché comprende in un unico documento tutte le prestazioni che l'INPS eroga, e quindi anche questa prestazione sarà messa nello stesso CUD. Quindi credo che proprio da questo punto di vista di problemi non ce ne siano. Il problema grande, credo, sarà, e dobbiamo tutti sforzarci, e quindi anche le trasmissioni di questo tipo sono utili per dare l'informazione, perché finora, prima la questione dell'elezione del Papa che dura tutt'oggi, poi la tornata elettorale, hanno catalizzato l'attenzione portando questo argomento sì, in secondo piano. Però io adesso faccio anche un'altra polemica, perché per chi ha capito che doveva andare a ritirare il rimborso dell'IMU hanno capito tutti tanto rapidamente, invece qua quando vogliamo capire delle cose le capiamo, quando non le vogliamo capire ci fa comodo, però ma questa è una polemica che non c'è. Noi ci poniamo in uno spirito e in un ruolo di servizio, lasciamo stare tutte le discussioni che si potrebbero fare su queste questioni. Noi vogliamo aiutare i pensionati e gli altri contribuenti a gestire in modo semplice, come abbiamo fatto per l'IMU, anche la dichiarazione dei redditi. Un'ultima precisazione, Canepari, perché alcuni ascoltatori ce lo scrivono. Allora, nessuno ha detto che la consulenza al CAF è gratuita. Allora, io su questo vorrei essere chiara, perché poi quando qua si capiscono le cose in un modo e noi le diciamo in un altro, mi arrabbio. Il tema è che se uno ha già attivata magari una consulenza annuale presso un centro di assistenza fiscale e in questo contesto si va ad un ufficio, ad un CAF, Canepari mi precisi se sbaglio, e si chiede mi fai anche attraverso il PIN tutte le mie caratteristiche, appunto mi viene lo scarico ma non è la parola giusta, la stampa del modello CUD dal sito dell'INPS, ecco, è quell'operazione lì aggiuntiva che è gratuita, oppure assolutamente, ecco. Assolutamente, per i contribuenti che vengono al CAF, che devono fare il 730 piuttosto che una pratica ISE, perché il modello CUD serve anche, uno potrebbe non fare il 730 ma dover fare l'ISE, e quindi il CUD serve. Per tutte le persone che vengono vanno a un CAF per ottenere un CUD che è legato alla prestazione, questa funzione è totalmente gratuita. Ecco qua. Canepari, grazie per essere stato con noi, ci risentiamo grazie presto. A partire da quest'anno, l'INPS rilascia i modelli CUD ai pensionati attraverso il canale telematico. Questo non significa però che non ci siano modalità alternative a disposizione di chi ha difficoltà ad accedere a internet. Ci si potrà recare in tutte le sedi INPS dove il front office viene potenziato, dedicando almeno uno sportello veloce al rilascio cartaceo del CUD. Vengono allestite anche postazioni informatiche self-service presso le quali gli utenti in possesso di PIN possono procedere alla stampa chiedendo, se necessario, l'aiuto del personale. Il CUD può essere rilasciato anche a una persona diversa dal titolare, a patto che questa presenti una delega corredata dalla fotocopia del documento di identità dell'interessato. Il cittadino potrà anche avvalersi di un CAF cui abbia conferito specifico mandato. Sarà inoltre possibile ottenere il CUD presso gli uffici postali appartenenti alla rete Sportello Amico, dietro un corrispettivo a carico dell'utente pari a 2,70 euro più IVA. È stato attivato infine un servizio telefonico. Contattando un numero verde si potrà richiedere la spedizione del CUD in forma cartacea al proprio domicilio. Il numero è gratuito per le chiamate da rete fissa 800 43 43 20. Per le chiamate da telefoni cellulari è disponibile il numero a pagamento 06 164 164. E abbiamo fatto il riassunto di tutte le modalità con le quali potete reperire il vostro CUD se non vi è arrivato appunto con la pensione. Questo chiaramente non toglie Matteo Prioschi che i problemi ci saranno, perché mi immagino già la vecchietta di Crotone che non potrà essere raggiunta da tutte queste informazioni e magari questo documento non le arriva e si preoccupa e non sa dove andare. Per cui è chiaro che le situazioni, come in tutte le situazioni delle quali possiamo parlare, appunto le situazioni potranno essere differenti. Sì, sicuramente ci saranno dei disagi, i canali sono molti, in effetti forse da questo punto c'è anche una certa confusione su quali sono tutte le vie diciamo disponibili, perché appunto l'INPS poi le ha attivate con tempi e modalità diverse, tipo il numero verde che è stato messo a disposizione nei giorni successivi alla prima comunicazione, quindi il quadro complessivo forse non è ben noto poi a tutti i pensionati, diciamo. La soluzione più semplice probabilmente per chi ne ha la possibilità è quella di farsi aiutare magari dal figlio o comunque da un parente più giovane che ha un computer e una connessione internet. A quel punto questa persona può scaricare direttamente esatto. Il modulo a meno che però, e consegnarlo all'interessato. L'altro problema che si potrebbe verificare, anche se non gli viene in mente di farsi aiutare, è se non trovo più il PIN che l'INPS mi ha comunicato. Francesco da Torino, mi pare che a lei sia capitato questo. Francesco? Sì. Eccoci. Non ci stava ascoltando, io l'ho lanciata. Sì. La mia domanda è questa. Io anni fa, quando sono andato in pensione, avevo fatto il collegamento all'INPS, il sito, e avevo la password, il PIN. Adesso però il problema è che non mi ricordo più il PIN. Ha perso allora la documentazione? Può chiamare il numero verde dell'INPS e dire guardate, mi è successa questa cosa, mi mandate, non so se il PIN si azzera oppure... È possibile far quello oppure bisogna farsi una nuova registrazione? Ecco Francesco, sentiamo Matteo Prioschi se conosce la procedura. Allora, bisogna richiedere la riattivazione del PIN. Tra l'altro una delle novità appunto comunicate nei giorni scorsi dall'INPS è che si passa da un PIN a 16 caratteri, come era quello in passato, a quella 8. Quindi contestualmente ci sarà anche questo aggiornamento. In buona sostanza quindi... E l'ascoltatore riceverà un PIN nuovo alla fine della fiera. Però perché deve comunicarlo appunto. Sì, certo, bisogna chiedere la riattivazione di quello vecchio e contestualmente comunque ne verrà fornito uno con le nuove caratteristiche. Tra l'altro lui avrà perso questo documento in casa, ma non è che se qualcun altro ci mette le mani può utilizzarlo, perché comunque ad ogni PIN corrisponde anche un dato anagrafico molto preciso del contribuente, dell'utente. Diciamo no? che non siamo non è un servizio bancario, credito, una carta di credito, quindi non rubano i soldi. Molto bene. Diana dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno Deborah e buongiorno al dottor Noris. Senta, io volevo che non esiste, perché vabbè Diana, non stavo scherzando, Nori dell'INPS che era nella prima parte della trasmissione. Scusi, adesso abbiamo con lui Matteo Prioschi, ci dica. È il dottor Prioschi, magari mi può aiutare per questo. Io ho sono riuscita ad ottenere il PIN, sono riuscita a scaricare il CUD, sono un pensionato ex INPDAP però. Mm-hmm. Adesso godo da agosto di una piccola pensione di reversibilità. Sì. Devo fare richiedere un altro PIN e quindi un'altra procedura per avere il CUD, oppure è già conteggiato il tutto nella certificazione? Certo Diana, allora come dire, io ragiono sulla base del buon senso, penso che la persona sia una e l'ente previdenziale abbia contezza di una posizione unica. Matteo? Sì, dovrebbe essere così. Comunque diciamo che nel CUD dovrebbe essere indicato appunto quali sono tutte le voci ricevute. Esatto, quindi magari se lo legga bene Diana, e qualora verificasse che non c'è una voce aggiuntiva che si riferisca a questa pensione di reversibilità che percepisce da agosto, magari se le viene qualche dubbio li contatti direttamente, così provvede a cristallizzare la sua situazione. Franco dalla provincia di Chieti, buongiorno. Buongiorno, io a dire la verità vorrei un po' contestare le argomentazioni del rappresentante dell'INPS, perché io ho un computer, avevo un PIN, ho cambiato il PIN di 16 cifre con 8 cifre, mi è stato dato questo nuovo PIN, ho cercato di cliccare servizi al cittadino, sono andato avanti, ma non sono riuscito a trovare il sito dove c'è questo benedetto culto. Ho parlato dopo giorni con il numero dell'INPS 803-164, neanche loro sono riusciti a dirmi il perché non lo riesce a trovare questo benedetto culto. Oh santo cielo, adesso qua tra l'altro non ho più tempo, Franco, perché altrimenti qui dal mio computer avrei cercato di aprire immediatamente il sito dell'INPS, magari lo faccio in diretta per vedere se si riesce a vedere volo la sezione indicata. Ecco qua. Io ho anche offerto il mio nuovo PIN di 8 CUD 2013, però c'è in prima pagina servizi online, CUD 2013, servizi per il cittadino, elenco di tutti i servizi. Lei mette il PIN per il cittadino. Mi dà un elenco di 15 servizi, 15-20. Sì, e non riesce a trovare il suo. Non riesco a trovare quale di questi 20 servizi, il servizio relativo al CUD. Al CUD, alla stampa del CUD. Il primo servizio, ma non è quello il fascicolo, non è quello che io chiedo. Allora, va bene Franco, la ringrazio per la segnalazione, adesso cercheremo di capire perché non riesce ad arrivarci. Comunque Matteo, questo per dire che su 18 milioni di persone che devono attivarsi per la stampa del Corso, neanche il riuscito a capire il perché io, no? dopo aver controllato. Benissimo. I vari Franco, perché non va in un ufficio INPS più vicino a casa sua per capire se è un problema legato. Devo fare 30 chilometri. Ho capito, un CAF che si faccia Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, come si dice, e se al CAF troverò adesso come minimo 50 persone che hanno gli stessi problemi. Franco, la ringrazio molto, segnaleremo all'INPS il suo problema. Matteo, vuoi concludere con qualche messaggio? L'ultima, diciamo così, via possibile è quella di chiamare il numero verde e farselo spedire da casa. Farselo spedire, quindi non Franco chiamare e chiedere perché non riesco a farlo io, se lo faccio spedire, punto e basta, perché è un'opzione che comunque c'è ancora, esiste. Grazie a Matteo Prioschi, noi torniamo domani, a tutti buona giornata.